and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oggi si riparla di guerra. Infatti, parliamo di guerra come di passatempo maschile e infantile di buona parte della popolazione umana. Sì, soprattutto maschile, perché infatti le donne, o le bambine, non giocando mai alla guerra, non imparano a fare... È quello che fa. Non hai mai notato che le donne non sanno fare, certo, i versi? Infatti, non so, Mladic era uno che da bambino è sempre tutto il tempo. Tutti i bambini comunque amano giocare con i soldatini. Sì, quello è vero. E ci sono quelli che non smettono più e continuano a farlo anche da grandi. Sì, quelli fanno l'accademia, diventano ufficiali, tenenti, capitani, maggiori, colonnelli e poi generali. E non smettono mai di giocare. Mai, mai. La scorsa settimana abbiamo parlato dei droni, no? Che sono gli aerei telecomandati, forse anche i carri armati telecomandati. Sì, è gioco divertente, è bombardare una città stando seduti tranquillamente a migliaia di chilometri da casa. Ma la nuova frontiera sono i gonfiabili. I gonfiabili. Ma sì, sai quelli che ci sono nei parchi giochi? O parco giochi, sì. O parchi giochi. Parchi vabbè, gioco. Insomma, quei grandi gonfiabili che sono la gioia dei bimbi. Sì, vabbè, ho capito. L'esercito russo si è buttato decisamente verso quel tipo di armamenti. Ma come? I gonfiabili, carri armati gonfiabili per ingannare i radar nemici. Ma capito? Come sarebbe? Ma questa te la sei inventata. Ma no, è tutto vero. No. La guerra non è più quell'evento tremendo e sanguinario di un tempo. Ah. Adesso al posto di fiori nei cannoni, gonfiabili al posto dei cannoni, capito? Come gonfiabili, funziona? Ma non funziona. È possibile. È cambiato tutto. Adesso praticamente mandi in missione carri armati gonfiabili, così il radar nemico li scambia per veri e si distrae, non capisce più. Sì, però e passa un drone, bombarda il carro armato gonfiabile russo. Una vera e propria guerra dei giocattoli. E senza vittime, fantastico, dai. Presto, tenente Drago! Comandi, comandante K! Non faccia ripetizioni, comandi, comandante, suona male! Dica agli ordini, comandante K! Agli ordini, comandante K! Presto, gonfiamo i mezzi blindati! Cosa c'è? Perché sta lì imbambolato? Ho dimenticato la pompetta nell'altro zaino! Ma quale pompetta? Per gonfiare... ma gonfierà i mezzi blindati con l'aria dei suoi polmoni! Presto, tenente Drago! Forza! Soffi! Si dia da fare! Soffi, tenente Drago! Forza! Ma quello non è un carro armato! È una bambola gonfiabile! Tenente Drago! Comandante K, evidentemente l'ho presa dal suo zaino, mi sono sbagliato! A lei piace la vita, piacciono le belle donne! Tenente Drago! Non accetto giudizi sul mio stile di vita! Sì, ma comandante K... Me la passi subito che la devo sgonfiare! Chiedo asilo! Bambini che non crescono, un grande problema. Guardandoti, infatti. Vabbè, noi lo stiamo affrontando da qualche mese, ma ormai stiamo disperando di riuscire a capire come sconfiggere questa tendenza a rimanere bambini. Perché l'Italia intera è un bambino che non cresce. Se si confrontano i PIL di 180 nazioni degli ultimi 10 anni, la classifica che ne esce fuori è sorprendente. La nazione che è cresciuta di meno è Haiti, che sta al 180esimo posto. Vabbè, sì. Al 179esimo posto c'è... L'Italia! E quindi in pratica l'Italia non cresce, rimane piccola, bambina. Beh, però se facciamo a mente un rapido bilancio di quello che è successo ad Haiti in questi 10 anni, si può facilmente capire come mai sta all'ultimo posto, perché nel 2004 c'è stata una rivolta popolare che ha cacciato il dittatore Aristide. Nello stesso anno si è abbattuto su Haiti l'uragano Jean. E nel 2010 c'è stato il disastroso terremoto che ricordiamo ancora, il tutto in mezzo alla tensione politica e al rischio permanente di colpi di Stato. E se invece vediamo quello che è successo in Italia negli ultimi 10 anni, scopriamo che non c'è stato nessun colpo di Stato, sì, più o meno, e nemmeno nessun uragano. Beh, quello sì, infatti. Il terremoto sì, però l'abbiamo avuto in Abruzzo. Per il resto, diciamo, tutto tranquillo. Infatti. Nessuna causa di forza maggiore ha impedito la crescita. Quindi siamo proprio fatti così. Non cresciamo perché non vogliamo, non c'è soluzione. Vabbè, e cosa fanno i nostri bambini politici? A malapena sanno che cos'è il PIL. Sentiamo il livello della discussione tra il bambino Tremonti e il bambino Franceschini. Che quant'è il prodotto interno lordo dell'Italia? Cos'è, sei felice? Mentre Franceschini studia cos'è il prodotto interno lordo. Io avrei stare dietro. Allora cosa devo scrivere qui? Il bambino Franceschini si presenta impreparato all'interrogazione. Purtroppo sì. Purtroppo il bambino premier, per commentare il disastro del PIL italiano, si attacca alla crisi globale. Vabbè, che deve fare? E alle due fregnacce che gli dice il suo amico bambino Brunetta sulla derivata seconda. Sulla? La derivata seconda. È tipo la supercazzola. Senti. C'è la crisi, che è la crisi globale, che tutti hanno indicato come una crisi, che è la peggiore crisi capitata. E quindi lo sapevamo e avevamo messo in conto questo, però come dice il professor Brunetta con una espressione di due parole che fotografa la situazione, la derivata seconda è migliorata, vale a dire che il tasso di peggioramento è rallentato verso lo zero, poi dallo zero verso più, derivata seconda. Me la siete voluta? Chiedo asilo! Le persone che chiedono asilo nido, Ironido. Allora qui noi dobbiamo intenderci, io voglio capire una cosa su questo federalismo. Ho capito che un posto in un asilo nido deve costare asilo nido allo stesso modo a Reggio Calabria come a Reggio Emilia. Siamo d'accordo? Bisogna far così. Asilo nido. Non ho ancora capito che risposta viene al seguente problema. Primo, cosa intendiamo per asilo nido? Asilo nido. Cioè, gli asili nidi italiani che standard devono avere? Asilo nido. Secondo, quanti posti d'asilo nido ci vogliono per i bambini italiani? Asilo nido. L'Europa dice 33. 33. Su 100 bambini. In Emilia sono 30. 30. La media italiana è 10. 10. A Reggio Calabria sono 2. 2. Asilo nido. Io voglio, per discutere di federalismo, sapere prima che obiettivo ci diamo per i posti d'asilo nido degli italiani. Diamo il diritto di asilo nido. Vabbè, ma adesso basta con la satira in punta di penna. È ora di andarci pesante con il voyeurismo spinto. A grande richiesta ritorna Insider Trading, la rubrica con le intercettazioni più pruriginose. Ma cosa fai, ti gratti? Eh beh, pruriginose. Insider Trading. Finalmente. If you're tired of waiting. Insider Trading, tutte le intercettazioni telefoniche che avete sempre sognato di ascoltare. Get your Insider Trading. Insider Trading. Pronto? Sì, ho chiamato io. Senta, io avrei bisogno di un appuntamento. Ho bisogno di dare un'occhiata alla mia, alla settima cervicale, che quando vado in montagna sento di non respirare bene e quindi come se avesse una contrattura sul diaframma. Poi magari lei me ne scopre un'altra. E... Oh no, ma c'è di nuovo il bambino Brunetta. Cosa sta facendo adesso? Litiga con la bambina Daria Bignardi. Vabbè, lascia che litighino, almeno si annullano a vicenda. Allora quando si dice privatizziamo il pubblico perché io non così mai, diventa io non più mai efficiente? Detto. Io non l'ho mai detto. Quindi lei non è d'accordo con chi vuole privatizzare? Se lei avesse letto il libro? Beh dai, però ministro, sia tranquillo, il libro l'ho letto. Non l'ha letto bene, non l'ha letto bene. Non faccia professore con me. Non l'ha letto bene. Rimani che sono capace anch'io di fare le battutine. Le facciamo. La prego di cambiare tono. Anche lei? Ha capito? Anche perché lei? Io sono gentilissima anch'io? Nei suoi confronti. Quindi la prego di cambiare tono. Anche lei? Ma lo smetta. Anche lei lo smetta. Perché lei, allora io faccio dell'autoironia. Io non l'ho mai trovata in una condizione del genere in vita mia. Ma forse la prima volta fa bene. Suor Dentona? Suor Dentona, i bambini Brunetta e Bignardi litigano. Ma non ti sente, poi hanno già smesso. Ah, già, sì. I bambini sono così, si fanno la guerra ma poi pace, amici come prima. Vabbè, prima di andare via però riproponiamo un quiz che avevamo presentato qualche settimana fa ma sul quale si erano addensati un po' di dubbi. Si tratta infatti di ascoltare uno spezzone che riguarda un celebre litigio in televisione tra il bambino Sgarbi e il bambino Cecchi Paone e indovinare quante volte viene ripetuta la parola Repubblica. Tu hai detto che ha scelto la porta! Hai detto, non lasciami ha scelto parlare! La vita. E taci! Hai detto, taci! Non ha scelto la taci! Vita. Taci! Il presidente della Repubblica taci! Sta taci! La taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Vabbè, allora, quante volte è stata detta la parola Repubblica? La scorsa volta ci sono state polemiche sulle risposte, perché c'è chi diceva 3, c'è chi diceva 4. A noi sembrava fosse un altro numero. Sì, né 3 né 4. Però adesso hanno tutti riascoltato, quindi rimandateci di nuovo le vostre risposte a chiedoasilo@radio24.it. Secondo me comunque Repubblica lo dice. Taci! domani. E mandate i vostri oggetti gonfiabili a chiedoasilo@radio24.it.